Radio 24 Reportage. Le nuove frontiere dello sport. L'Azerbaigian. Di Dario Ricci. Regia Fabio Cantadori. Giorgio Chiellini, 1-0. Calcio d'angolo dentro, autogol! E 1-1! Autogol! Incredibile! A 15 dalla fine. Giovincola mette giù, poi arriva il traversone, Chiellini! Doppietta di Giorgio Chiellini! E 2-1! Doppietta di Chiellini! La doppietta di Giorgio Chiellini ci ha tolto dai guai, ma certo il successo striminzito per 2-1 ottenuto a Palermo lo scorso 10 ottobre nella sfida contro l'Azerbaigian, valida per le qualificazioni ai campionati europei del 2016, ci ha dato un esempio tangibile di come si stiano spostando le frontiere dello sport europeo. Bastino pochi esempi: le Olimpiadi e il recente Gran Premio di Formula 1 di Sochi in Russia, Almaty, capitale del Kazakistan, in corsa per i giochi olimpici invernali del 2022. La stessa Baku, capitale dell'Azerbaigian, che a giugno ospiterà i primi giochi europei e che nel 2020 sarà tra le città protagoniste dei campionati europei di calcio. Elkan Mammadov, segretario generale della Federcalcio dell'Azerbaigian. When we started the bidding process, we really believed it. Quando abbiamo lanciato la nostra candidatura, puntavamo ad essere, con Baku, una delle 13 città in grado di ospitare un evento così importante proprio nel 60° anniversario dei campionati europei di calcio nel 2020. Per noi è stata una grande gioia, quindi, quando Baku è stata scelta non solo per ospitare un gruppo della prima fase, ma anche una gara dei quarti di finale, proprio come accadrà a Roma, per esempio, ma anche a Monaco di Baviera e a San Pietroburgo. Questo è qualcosa di speciale per noi. Certo, sfortunatamente non c'è una qualificazione automatica per le nazioni che ospitano i gruppi della prima fase, dovremo meritarcela sul campo. Per questo stiamo lavorando per rendere competitiva la nostra rappresentativa nazionale. Vogliamo dare ai nostri giovani calciatori la possibilità di giocare e di crescere. E anche queste gare verso Euro 2016 saranno importanti per fare esperienza. Young players who will be given the chance to play and to get some experience. Al 2-1 di Palermo per l'Azerbaigian ha fatto seguito il pesante 6-0 in trasferta con la Croazia, segno che di passi avanti bisogna ancora farne. Rustam Efserli, giornalista di Radio Antenna Baku, ci spiega come è organizzato il campionato di calcio a zero. La nostra Serie A si chiama Premier League, è organizzata dal Liga Professionisti, giocatori di calcio. Ci sono 10 squadre alla Serie A, 4 di queste 10 abitano a Baku, anche il Neftchi, che forse si ricordi dalle partite con l'Inter due anni fa. L'ultima stagione campionato ha vinto il Karabakh, che anche gioca per l'Europa League, anche se ha giocato con l'Inter. Drammatica partita fra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Boninsegna ha saltato, Schutz, passaggio, Rivera, rete, Rivera ancora, 4-3, 4-3, gol di Rivera. Man muss erstmal sehr sehr viel arbeiten, man muss sehr viel trainieren und in Aserbaidschan wird zu wenig trainiert, auch die Profis trainieren zu wenig, aber das ist Sache der Clubs. È stato uno dei protagonisti della partita del secolo, quell'Italia-Germania 4-3 di Messico 1970. Oggi Bertie Fox allena proprio la nazionale dell'Azerbaigian. Come far crescere il livello del gioco? Fox è netto, servono allenamento e mentalità professionale e la possibilità per i giovani azeri di iniziare a giocare a calcio fin dall'età scolare. Del resto per il football, a Baku e dintorni, la concorrenza non manca, come spiega ancora Efserli. Lo sport più popolare in Azerbaigian è il calcio, nessun dubbio con questo, ma l'Azerbaigian è anche il paese del wrestling. La lotta, ci sono molti, sì, ci sono molti giocatori, sì, lottatori che hanno i medagli alle giochi olimpici. Anche c'è il forte, la squadra di volleyball. passione per lo sport e voglia di accreditarsi attraverso proprio lo sport come interlocutori affidabili dell'Occidente. È la strategia che accomuna molte delle ex repubbliche sovietiche, come sottolinea l'ambasciatore a zero in Italia, Vafik Sadikov. Today the government of Azerbaijan invests a lot into the social sphere, such as education. Oggi il governo dell'Azerbaigian sta investendo molto in ambito sociale, educazione, sanità, sport, cultura, formazione dei giovani. Sono settori importanti e strategici. Non a caso nel giugno 2015 ospiteremo a Baku i primi giochi europei. Ci aspettiamo circa 7.000 sportivi da tutta Europa e più di 20.000 visitatori nel nostro paese. E nel 2016 ospiteremo un'altra importante manifestazione sportiva, i giochi panislamici, perché il nostro è un paese che ha una gamba in Europa e l'altra in Asia. E nel 2017 ospiteremo le Olimpiadi degli scacchi e anche la Formula 1, che sarà ospitata in Azerbaijan per la prima volta. Stiamo investendo molto affinché la gente ci conosca e conosca il nostro paese. Questo è il nostro obiettivo. Investimenti ingenti, quindi, che a Baku sperano vengano presto corroborati dai risultati sul campo. Ancora Rustam Efserli. Ci sono molti soldi all'Azerbaigian, perché l'Azerbaigian è il paese di benzina, del petrolio. Ora sta costruendo lo stadio nuovo, il stadio olimpico. Il presidente dell'Azerbaigian, anche la federazione di calcio, cercano di far crescere il calcio. Perché l'Azerbaigian è il paese giovane, 20 anni che abbiamo l'indipendenza, non ci sono molti giocatori forti che giocano all'Europa, all'estero, non ci sono. È normale, non aspettiamo il grande risultato dal nazionale azerbaigiano, del club dell'Azerbaigian, ma penso che in 4, 5, 6 anni possiamo fare meglio, sì. E a proposito del nuovo stadio di Baku, un ruolo non marginale nella sua realizzazione lo sta giocando proprio l'Italia. Angelo Spampinato, 36enne, architetto siciliano, sta collaborando alla realizzazione dell'impianto. Baku si sta preparando per ospitare e i primi giochi europei con questo impianto da 68.000 posti, attualmente in fase di completamento e i lavori stanno procedendo veramente in maniera velocissima, si può vedere quotidianamente l'avanzamento. Sarà uno stadio di livello internazionale in grado di offrire alti standard di comfort per gli spettatori e anche per gli atleti, uno stadio anche omologato per gare di calcio dalla UEFA e dalla FIFA. Tempi stretti, mancanza di esperienza nell'organizzazione di grandi eventi sportivi, i nodi da sciogliere verso i giochi europei del prossimo giugno non sono pochi, ma gli azeri hanno le carte in regola per farcela, assicura Spampinato. Chiaramente anche dal punto di vista culturale, diciamo, manca probabilmente un background di organizzazione di grandi eventi sportivi, anche se l'Azerbaigian sta correndo davvero velocemente da questo punto di vista. Vuole affermare come un paese, come una nazione di livello europeo e sta puntando molto sullo sport. Non solo scambio di conoscenze però, a unire Roma e Baku anche affari e rapporti politici sempre più fitti, evidenzia ancora l'ambasciatore Sadikov. Italy and Azerbaijan have very strong relations in the political field. We adopted very important political document, the Dichiarazione on Partenariato Strategico tra Italia e Azerbaijan. It's a new document, very important. Last year, Interscambio Commerciale was about 7.5 billion euros, which is a big figure. Business, diplomazia, ma soprattutto campioni. A rinsaldare l'asse trasporto e geopolitica, lo sbarco a Baku anche di alcune big del nostro sport. Su tutte le nazionali di pallavolo Francesca Ferretti e Valentina Righetti, pronte all'esordio nel campionato a zero. Perché questa scelta? ingaggi, curiosità, desiderio di nuove sfide che portano sempre più a est, come spiega proprio Valentina Arrighetti. È un campionato che comunque è cresciuto molto negli ultimi anni. Avevo voglia, bisogno, necessità di un'esperienza nuova e ho provato. Tanta curiosità. Sì, curiosità e voglia di stimoli e di crescere magari in un modo diverso, però magari mi darà qualcos'altro, anche magari qualche difficoltà in più che mi faranno crescere. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.